Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Per quest'anno non cambiare. Stessa spiaggia, stesso mare, bisogna ascoltare due di denari come Assa e la Rossani. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rossani e Mauro Meazza. Non ho avuto dei bei momenti stamattina. Mi state prendendo in giro per caso dallo studio? No, ma figurati Deborah, ma ci mancherebbe altro. Senti come viene giù. Piove, sì. Senti come piove. Madonna come piove. Senti come viene giù. Tutto sai che cosa faccio, Mauro? Dimmi. Guarda, adesso mi metto con il microfono fuori dal mio balcone e vi faccio sentire quello che sta succedendo. Allora, mi sembra che al momento non stia piovendo, sì, ma il cielo è grigio, non è molto promettente e appunto io questa mattina ho avuto ancora una volta la simpatica sorpresa di trovare il Seveso praticamente di fronte alla porta di casa. Era venuto lui a trovarci, a me, ecco, e tutti i miei amici del condominio. Bene, allora spero che voi gli abbiate offerto perlomeno un caffè, visto che si è alzato, certo, di buon'ora il Seveso questa mattina. Sì, mi è pare di buon umore, alle 6, soprattutto alle 7, vero? Mamma allora, mia. C'è purtroppo. Per ci fortuna tocca... che non sono dovuta venire, esatto, perché che non sono dovuta venire in redazione, sennò arrivavo come al solito con gli stivali della pioggia, perché ormai siamo tutti ben equipaggiati in questo quartiere per queste evenienze. Non è un clima ideale per parlare del tema della nostra ultima puntata, cara Deborah, no, perché noi abbiamo concentrato questa ultima puntata prima della pausa estiva sulle vacanze, quindi vogliamo parlare, sì, un po' di viaggi, di vacanze, di dove andremo in vacanza. Invitiamo anche gli ascoltatori a dirci cosa faranno, andranno in vacanza, perché c'è anche questo aspetto da non trascurare in questo 2020 così particolare, e non uso altri aggettivi. Se volete dircelo, 800 24 0024 è il numero verde, come sempre. E poi c'è il numero per inviare SMS o inviare WhatsApp, anche vocali. 349-238-6666. Raccontateci non le vostre vacanze, ma che cosa volete fare, se avete avuto problemi. Avete chiesto il bonus? L'avete ottenuto? Avete trovato la struttura che lo accetta? Sono tutte domande alle quali Peter Bescapè, vigile al di là del vetro, pronto ad accogliere e a gestire il tutto. Ma di là addirittura questa mattina, cara Deborah, abbiamo due badanti. Non Marco Lombardo, al quale auguriamo ottime vacanze, ottime e meritatissime vacanze. Poi lo disturberemo per il Serpente Corallo, ma se ne parlerà sabato prossimo, non domani. Abbiamo Giorgio De Luca, già pronto ad accogliere tutto quanto, lì è pronto e attento. E poi ci sarà una staffetta, sai, come Mazzola Rivera anni 70, e così ho rivelato... E sono periodi così, la esatto. Mia età. Sì, esatto. Mazzola Rivera anni 70, noi sostituiremo De Luca con Ternullo, Valentina Ternullo, che quindi avrà tutto un altro impatto estetico sulla genere presente al di là del vetro. Tutto ciò premesso, cara Deborah, io farei, sì, in questo modo. I numeri li abbiamo ricordati, il tema l'abbiamo, certo, detto. Parliamo, sì, ovviamente seriamente di vacanze, anche con ospiti di valore mondiale, come sempre, anche in questa ultima puntata prima della pausa. Però un giornalino del risparmio ci sta, cosa dici? L'importante è che il tema sia lo stesso di tutta la trasmissione. Mi concentro. Con Mazza e Rossani tenete cari i vostri grani. E allora ti leggo, sì, da cosa vuoi partire? Dalle raccomandazioni o da questa nuova ondata di rincari confermati ancora una volta da alcune ricognizioni sulle spiagge italiane? Non c'è niente da fare, l'ombrellone con l'esdraio quest'anno costeranno un po' di più. Guarda, partiamo da questo. Tanto si dice che prima le brutte notizie, no? E allora partiamo dalla brutta notizia. Andiamo, di pure Deborah, sono tutto orecchi. Sì, allora, guarda, in realtà ce ne sono state tante di indagini fatte dalle associazioni dei consumatori, da tante organizzazioni appunto che stanno provando a monitorare effettivamente se le maggiori condizioni di sicurezza che devono organizzare i gestori degli stabilimenti balneari verranno in qualche maniera ad essere spalmati anche sugli avventori delle spiagge e sui clienti. A quanto pare così succederà. Ti dico cosa scrive Repubblica quest'oggi: ombrelloni uno lontano dall'altro, gel igienizzante pronto all'uso, cartelli informativi. Gli stabilimenti balneari per riaprire i battenti nell'estate post pandemia hanno dovuto adeguarsi alle linee guida fissate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome, e quindi tutte queste precauzioni riducono i guadagni dei lidi e talvolta impongono loro nuovi costi che si ripercuotono sugli utenti, facendo impennare fino al 35% la tariffa per una giornata al mare. È un'indagine di Altro Consumo, che viene appunto riportata oggi dal quotidiano La Repubblica, che ha fatto i conti in tasca ai bagnanti, e quindi insomma diciamo che in realtà qualche ascoltatore ce l'aveva già segnalato e quindi questa cosa l'avevamo già scoperta. Le percentuali sono questi: c'è un 5% in più indicato da questa indagine per il noleggio di ombrelloni e lettini per un mese, il 15% in più per l'abbonamento settimanale, il 12% in più per una giornata. Chiaramente, Mauro, con le dovute differenze fra una località e l'altra, in genere i rincari vanno di pari passo con la distanza fra gli ombrelloni e lo spazio a disposizione. Più distanza c'è, chiaramente più c'è un costo da sostenere per appunto l'ombrellone e i lettini. Qualche spiaggia, la leggo, sì. Liguria, si è passati da 225 euro per 7 ingressi dello scorso anno ai 282 necessari per il prossimo mese di agosto. Tra l'altro, con tutte le difficoltà che avremo a raggiungere la Liguria, arriviamo, ci costa tutto pure di più. Non è un anno simpatico per questa regione, poveretti. No, tra l'altro hai visto sul Sole 24 Ore di oggi c'è anche questo lavoro di Maurizio Caprino. Questa procedura il Ministero dei Trasporti rispetto ad autostrade, il Ministero dice che è comunque ancora a rischio il 95% dei tunnel liguri. Tanto per dire, non vorrei fare una battuta facile oggi, ma piove sul bagnato proprio, perché già ci sono abbastanza problemi sulla quella parte della rete viaria. Io do quasi una buona notizia, cioè quasi, perché potrebbe essere prodromica una buona notizia. L'Autorità per la Regolazione dei Trasporti ha ribadito, così come già aveva fatto la Commissione, così come già avevano fatto altre autorità, che deve essere il consumatore a poter scegliere tra il voucher e il rimborso. Non deve esserci una sorta di automatismo per cui ti danno il voucher e finiamo così. Oh, sai che è una materia molto intricata, è da marzo-aprile che andiamo avanti con questa ambivalenza, però anche l'autorità come i rimborsi per i concerti annullati, per tutte queste cosine qua, insomma ci sono stati molti momenti di passaggio confusi, direi. Esatto, quindi niente, adesso l'autorità l'ha detto e il governo ne prenderà atto, se potrà provvederà. Ho il sospetto che nonostante anche il buon andamento delle trattative sul recovery fund e quant'altro, insomma, di margini per dare ulteriori aiuti, ma vedremo. Adesso c'è stata una ulteriore decisione per altro deficit per 25 miliardi, chissà se arriverà anche la possibilità di sbloccare questo tipo di situazione, certo. O lasceremo tutto così come sta. Prego Deborah. Comunque Mauro, il punto è che quest'anno per viaggiare dovremmo attrezzarci mentalmente, oltre che praticamente, in maniera diversa rispetto al passato, con molti accorgimenti in più che riguarderanno soprattutto gli spostamenti. C'è questo vademecum che è stato stilato da SOS Tariffe, le informazioni da conoscere prima di partire. Se volete andare a vedere sul sito di questo comparatore di tariffe, si sono cimentati anche nelle elencazioni delle informazioni necessarie per viaggiare in questo momento. Chiederei gentilmente a Peter se mi abbassa un po' la musica, perché in cuffia questa mattina sto diventando sorda, oltre che quasi annegata davanti a casa mia. Le informazioni da conoscere prima di partire, ve ne indico qualcuna. Intanto attenzione al viaggio in macchina, perché bisogna essere molto accorti anche per per questo attenzione a tutte le persone che portiamo a bordo con noi, perché ci sono tutta ancora una serie di divieti che non riguardano per fortuna i congiunti, ma riguardano le persone appunto che non sono stretti familiari, e quindi bisogna essere distanziati anche in auto. Ci sono delle attenzioni da fare anche se si viaggia in treno o in aereo, c'è chiaramente prima di partire tutta la misurazione della temperatura obbligatoria per entrambi i casi. Chiaramente se ci troviamo con una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi non si parte, e poi c'è l'obbligo di mantenere la distanza di un metro all'interno appunto sia dei vagoni del treno che delle cabine appunto di viaggio in aereo, mascherine obbligatorie per tutta la durata del viaggio, quindi attenzione anche a partire adeguatamente equipaggiati. C'è tutta una serie di raccomandazioni che SS Tariffe fa anche per quello che riguarda i viaggi all'estero, con tutte le indicazioni degli spostamenti fra paesi, quindi dove è più facile viaggiare, dove invece è un po' più complicato. Infine l'ultima raccomandazione riguarda anche l'assicurazione dei viaggi, questa dovremmo sempre portarla con noi, attenzione che quest'anno copra anche una possibile copertura, appunto che ci sia anche una possibile copertura Covid, quindi non si tratta di una tradizionale polizza assicurativa, ma un'assicurazione che comprenda l'assistenza medica illimitata nel caso in cui viaggiando, uscendo dal nostro paese in ottima salute, si contragga il virus altrove. Studiamo anche una polizza con la nostra compagnia di fiducia che ci copra, se proprio vogliamo andare molto lontani dalla nostra città d'origine, che ci copra anche da questa eventualità. E allora ricordate queste raccomandazioni, direi elementari, essenziali per mettersi in viaggio, per viaggiare quest'anno, l'anno della pandemia. Andiamo al tema della giornata, vacanze, abbiamo già direi abbastanza avvicinato il tema con i rincari, sai, abbiamo già scaldato gli animi degli ascoltatori, cara Debora, perché si stanno già attivando. Sì, bene. Stanno già testimoniando che questi rincari li vedono, anzi si lagnano del fatto che ce ne saremmo accorti tardi. In realtà noi abbiamo più volte ricordato questa cosa, insomma, che c'era il timore di rincari, poi bisogna come sempre andare a verificare volta per volta, struttura per struttura, ma è proprio quello che andremo a fare tra un momento, quando avremo i nostri ospiti come sempre di rilievo mondiale, dopo l'abituale passaggio musicale che sancisce l'avvio del tema. Benvenuto in rigoroso ordine alfabetico per cognome, cara Debora. Certo. Stefano Dallara è il presidente di Robin Tour Travel Group Italia. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. E a Marco Michielli, che è il vicepresidente nazionale di Federalberghi. Buongiorno, buongiorno vicepresidente Michielli. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Debora, da dove vuoi partire? Dimmi tu. Allora, facciamoci raccontare questo studio sulle previsioni, l'osservatorio Robin Tun Travel Group, appunto l'osservatorio sulle vacanze post-Covid degli italiani. Una indagine che è stata rilasciata qualche settimana fa, probabilmente è stata anche un pochino riaggiornata, che racconta quanti italiani dopo il Covid hanno pensato di rinunciare alle vacanze 2020, chissà se nel frattempo hanno potuto ripensarci, magari il lavoro per qualcuno è ripartito, la situazione economica personale e familiare è stato fatto così un po' d'analisi, sarà meno peggiore delle previsto, e dopo tutto quello che è successo, forse Mauro, non ci dimentichiamo anche questo aspetto, dal punto di vista emotivo magari un po' di stacco mentale ce lo meritiamo anche, allora vorremmo lasciare da parte la preoccupazione economica e rasserenare un po' l'animo, magari facendo una vacanza un po' più all'insegna del risparmio, un po' più vicina a casa nostra, ma proprio rimanere in casa magari forse quest'anno non è il caso. E allora Dallara, parto subito da lei, intanto ci racconti che cos'è Robin Tour Travel, cosa fate e soprattutto che cosa avete scoperto su questa strana estate che tutti dovremmo vivere. Vabbè, in sintesi, Robin Tour Travel Group è uno dei principali gruppi turistici della distribuzione del paese, che sviluppa un business di oltre 300, sviluppava al 31/12/2019, perché chiaramente già nella vostra trasmissione abbiamo parlato della grave crisi del turismo, comunque oltre 300 milioni di business, lavora nei segmenti del turismo del leisure, del turismo dei privati, gruppi e business travel. Questa è un po' la storia di Robin. E dal punto di vista dell'oggetto, così, della richiesta che mi avete fatto della vostra trasmissione, il report che noi annualmente rilasciamo insieme all'osservatorio italiani.coop, che è uno dei portali più importanti per l'analisi dei fenomeni sociali e di consumo del paese. È un'indagine quest'anno che ovviamente è stata molto condizionata dalla vicenda Covid e ci dice che sostanzialmente, cerco di essere molto sintetico, che intanto circa 10 milioni di italiani hanno intenzione di rimanere a casa o nelle vicinanze di casa. Questo ovviamente non è solo legato all'effetto pandemia e ai rischi sanitari, ma è legato anche a una preoccupazione economica. Ricordiamo che ci sono centinaia di migliaia di persone in questo paese oggi che sono sotto copertura degli ammortizzatori sociali. Esatto. Con tutto quello che ne consegue. Quindi si innestano due cose: da un lato la preoccupazione sanitaria, che ha di fatto alterato ogni idea di andare all'estero. Oggi si vende pochissimo di estero, un po' di Spagna, un po' di Grecia, ma le tradizionali mete degli italiani, che erano molto gettonate anche durante l'estate, penso all'Egitto, sono completamente chiuse. I fenomeni pandemici che si stanno manifestando in tante mete turistiche che gli italiani amavano hanno completamente bloccato, quindi è tutto praticamente chiuso. Quindi un ritorno al turismo in Italia, ma condizionato appunto anche da una preoccupazione finanziaria, quindi la gente è preoccupata. Mm-hmm. E questo si riflette, diciamo che ovviamente per aggiornare anche le previsioni che hanno dato, confermiamo che la ripresa a luglio ed agosto è lenta, ovviamente tutto concentrato sull'Italia, che c'è anche un turismo molto di prossimità con attenzione agli appartamenti, che purtroppo nella mente del consumatore, lo dico perché c'è anche il collega di Federalberghi, stanno condizionando anche questo tipo di prenotazione, mentre già sappiamo che l'industria, la filiera della ricettività, alberghi, villaggi, hanno fatto veramente i miracoli per garantire le migliori condizioni sanitarie. Diciamo che il Covid ha riportato gli italiani indietro di 50 anni come modalità di vacanza, non avete citato prima anche voi. Si riparla di un forte utilizzo dell'auto privata, c'è preoccupazione per gli spostamenti in treno in aereo, quindi un italiano su due pensa alla seconda casa sua o di amici o di parenti per sfruttare questa vacanza, che comunque vede abbastanza breve confronto al solito. E questo è legato proprio a quello che dicevo prima. Poi c'è un'idea di vacanza comoda, c'è voglia di socializzare, voglia di stare con gli amici, però diciamo la pandemia non ha cancellato la voglia di vacanza, l'ha ridotta. C'è molta idea di vacanze green, perché l'italiano comunque è molto portato e sente molto questo tema, però insomma il lockdown, è inutile negarlo, si fa sentire su questo tipo di motivazione. No, dicevo dottor Dallara, perché volevo chiamare in causa Micheli proprio su queste previsioni. Quindi diciamo conclusivamente, come dalla vostra indagine, dalla vostra rilevazione, una vacanza all'insegna della sobrietà, se non vogliamo dire del risparmio, ma per qualcuno, molti ascoltatori ci stanno scrivendo, per carità non è un'indagine la nostra, ma confermando appunto che non faranno vacanze, faranno meno vacanze, cercano modo di risparmiare sulle vacanze, insomma questo è quello che risulta poi anche dalla vostra indagine, Dallara. Sì, assolutamente, con il mare che rimane la meta più gettonata per un 60%, ma anche la montagna e la natura hanno molto, molto appeal. Vediamo molta spinta sulla Puglia, un po' più sulla Sicilia, meno sulla Sardegna, perché chiaramente è vista molto come una meta da trasporto aereo. Certo, si può andare anche in macchina, ma comunque il viaggio è più lungo, e quindi questo vediamo anche un ritorno importante della dorsale adriatica, spinta sul Trentino e sull'Alto Adige per le vacanze in montagna. Però confermiamo vacanze più corte. Obiettivamente, dal nostro osservatorio, nonostante l'appesantimento dei costi di sanificazione che, voglio dire, gravano sui colleghi appunto delle strutture ricettive, noi non abbiamo visto particolari problemi dal punto di vista dei prezzi, è tutto molto variegato. Certo, ci sono anche molte strutture chiuse, ma quello è capibile, concepibile, perché spesso un'apertura con l'aumento dei costi e magari poche presenze rischia di diventare una perdita molto pesante. Certo. Volevo fare, Mauro, un'ultima domanda a Dallara, se mi consenti, perché dottor Dallara, lei sa che nelle settimane passate voi come strutture che si occupano appunto di organizzare i viaggi delle famiglie, appunto avete avuto anche un altro problema, quello cioè di tutti coloro che avevano attraverso la vostra rete, come tante altre reti, prenotato delle vacanze magari con tanti mesi di anticipo tra gennaio e febbraio, e poi spaventati da quello che stava accadendo hanno voluto ripensarci e quindi hanno cominciato a chiedere appunto di annullare eventuali prenotazioni fatte per le vacanze estive. Avete ancora molto, mi passi questo termine che non è corretto, ma insomma contenzioso aperto? Avete ancora tante situazioni in sospeso, diciamo, con persone che non vogliono più partire? Certo, diciamo che è stato un flagello da febbraio fino a giugno, e questo è stato veramente pesante, perché oltre a non vendere, a non fare business, abbiamo dovuto occuparci di sistemare tutte queste partite. Tenete conto che è stata una questione molto delicata, perché sì, non sempre il consumatore percepisce quali sono tutti i problemi della filiera, perché caso anche voi pagate i fornitori, prenotate certo, anche voi. E quindi è una filiera, voglio dire, lunga, che ha un ciclo di programmazione che va dai 6 ai 12, a volte anche 14 mesi, quindi voi capite i problemi che ci sono arrivati addosso su questo settore. Non a caso noi stiamo anche oggi, tenuto conto che di aiuti, voi sapete, avete anche seguito le vicende del manifesto sul turismo, che in questo momento sì, aveva rallentato la sua azione, perché speravamo che con l'ultimo decreto, le nostre speranze sono state disattese. Quindi stiamo continuando a discutere col governo, perché in effetti gli aiuti praticamente non ci sono stati. Siamo stati riconosciuti come il settore più in crisi, ma siamo l'ultimo che verrà aiutato. Questo è un disastro, perché la filiera turistica rischia veramente a settembre di andare quasi completamente a gamba all'aria. Guardi, su questo io chiamo in causa Marco Michielli di Federalberghi, vicepresidente nazionale di Federalberghi. Conferma innanzitutto questo quadro che ci ha fatto Dallara, e appunto incentivi, sostegni, supporti, provvidenze per il settore, perché il settore sta pagando un prezzo pesantissimo alla pandemia, dottor Michielli. Guardi, posso sottoscrivere, non condividere, sottoscrivere quanto è stato appena detto. Noi abbiamo rilasciato proprio ieri un'indagine fatta dal Centro Studi Federalberghi Nazionale con l'aiuto dell'Istituto ACS Marketing Solution, e sostanzialmente ripercorre nei dati quelli che sono stati appena forniti. In estrema sintesi, solo il 46% degli italiani farà una vacanza quest'anno, con un calo del 20% degli italiani. Consideri che sempre il nostro centro studi ha rilasciato una ipotesi, uno studio sulla vacanza degli stranieri. Gli stranieri pesano per un meno 70% rispetto all'anno scorso. Il quadro, lei capisce, è comprensibilmente desolante. È allarmante, mi verrebbe da dire. Cioè, un italiano su due non andrà in vacanza, e due stranieri su tre non verranno in Italia. Questo mi pare la sintesi brutale giornalistica, per carità. Allora, guardi, Michele, la fermo un istante, perché siamo arrivati alle 11.30 e Deborah deve aggiornarci sui mercati finanziari, sapere come vanno le borse, però torniamo subito, anche perché poi con lei vorrei parlare un secondo del bonus vacanze, vorremmo sapere qualche cosa anche dal lato appunto di Federalberghi, ma prima di tutto le borse. Soldi buttati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di denari. Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso. Beh, una vita in vacanza quest'anno mi sa che vedremo. Ne stiamo parlando con Marco Michielli e con Stefano Dallara, rispettivamente vicepresidente nazionale di Federalberghi e presidente di Robin Tour Travel Group. Michielli, ci siamo fermati per l'aggiornamento sulle borse prima di introdurre il tema caldo, direi, del bonus vacanze. Si segnalano molti che l'hanno chiesto, però le strutture nicchiano, per dir così, o almeno su certe categorie pare di capire che ci siano delle difficoltà, perché i tempi di recupero poi di questo bonus non sono tempestivi, non sono adeguati per la struttura stessa. Questo facendo un po' una sintesi, però magari ho informazioni non aggiornate, Michelli, mi dica lei. Io le do la posizione di Federalberghi. La posizione di Federalberghi è estremamente proattiva nei confronti di questo strumento, e chiaramente la nostra considerazione primaria è che non è un aiuto alle imprese, ma è un aiuto alle famiglie. Detto questo, piuttosto che niente, meglio piuttosto, come si dice nel mio Veneto, per cui la posizione di Federalberghi è estremamente proattiva. Come dicevo, abbiamo pubblicato sul sito nostro Italy Hotels l'elenco di tutti gli alberghi che ci hanno comunicato di accettare i bonus vacanze, e credo che a questo punto, non ho l'aggiornamento in DIE, ma credo che siamo a più di 2000 e rotte strutture che lo accettano. Dovete considerare ovviamente che c'è ancora quasi un 50% di alberghi chiusi in Italia, quindi la proiezione di quanti lo accettano deve essere fatta su quelli aperti. Poi ci sono dei problemi intrinseci allo strumento. La costruzione delle modalità di ricezione di questo bonus sembra studiata da un architetto bizantino, perché sì, ce l'aveva già detto l'altra volta, insomma, la sua perplessità l'aveva espressa molto chiaramente una decina di giorni fa, sempre però in una nostra trasmissione. Va detto comunque che il nostro sito è arrivato a una punta di 5 milioni di visite, quindi vuol dire che lo strumento alle famiglie interessa. Ecco, noi più che pubblicare l'elenco, sollecitare i nostri ad accettarle, non possiamo fare. Ovviamente la scelta imprenditoriale del singolo imprenditore è basata appunto sul fatto, sulla mera considerazione che questo strumento in realtà viene pagato, fra virgolette, dall'imprenditore per l'80%, in un momento in cui la liquidità per le nostre imprese è il mantra assoluto. Noi abbiamo aziende che non stanno incassando un euro da febbraio. Mi lascio fare l'esempio della mia amata Venezia. Venezia addirittura da novembre con l'acqua alta, e ancora chiediamo alle aziende di rinunciare a liquidità a fronte di un bonus fiscale. Va bene tutto. Noi abbiamo accettato, ripeto, piuttosto che nulla è meglio questa cosa, stiamo spingendo per farla, però io non amo molto sentire queste polemiche sugli albergatori, che non da parte vostra ovviamente, ma a mezzo stampa, sugli albergatori che accettano o non accettano il bonus vacante. Io ho il polso della situazione oggettiva. Ci sono persone che hanno scambiato il bonus vacante non come un contributo sulla maggior spesa per le vacanze, ma come il budget delle loro vacanze. Telefono in albergo dicendo: io ho 500 euro, quanti giorni posso stare? Cosa posso? Ecco. Certo, questo... Senta, Presidente, posso chiedere un'altra cosa? Perché qualche ascoltatore ci aveva scritto qua, guardi, veramente non è né polemica né giudizio nei vostri confronti, è proprio una richiesta di informazione. Qualche struttura chiede 50 euro per attivare la pratica del voucher. Magari è vero che per compilare questa istruttoria, per gestirla, qualche costo vivo lo dovete sostenere, ammettendo che noi lo giustifichiamo, 50 euro mi sembrano un po' tanti. Le risulta che qualche vostro associato abbia fatto questa richiesta, voi la sostenete, appoggiate, che cosa ci dice? No, appoggiarla sicuramente no, non mi risulta, è la prima volta che ne sento parlare. Il mio giudizio è drastico su questa cosa, non va fatta, non si deve fare, punto e basta. Dopo le mandiamo la mail dell'ascoltatore allora, che ci ha scritto. Abbiamo chiarito. Abbiamo chiarito. Debora, io ne approfitto intanto per salutare Stefano Dallara, per congedare Stefano Dallara, presidente di Robin Tour Travel Group. Grazie di essere stato con noi, di averci raccontato la vostra indagine, dottor Dallara. Grazie a voi e un saluto ai vostri ascoltatori. E ti informo, grazie, e ti informo che Due di Denari sostituisce il dottor Stefano Dallara con il dottor Giacomo Trovato, amministratore delegato di Airbnb Italia. Buongiorno, benvenuto a Due di Denari, dottor Trovato. Buongiorno a tutti voi. Allora, Debora, non so se vuoi proseguire ancora un paio di minuti con il dottor Michelli, perché poi con il dottor Trovato vorremmo parlare delle possibili truffe e dei serpenti corallo, in qualche modo, che possono annidarsi anche nelle vacanze. Hai ancora qualche cosa da chiedere? Sì, magari Michelli? Gli facciamo fare un'ultima, sì, volentieri. Allora, essendo d'accordo con lui sul fatto che la procedura bizantina di attivazione del voucher ha complicato un po' le cose per tutti. Molte famiglie poi si sono attivate, hanno attivato la SPID, hanno scaricato il famoso QR code, hanno cercato di contattare sul territorio nazionale strutture disponibili appunto a far fare una vacanza attraverso questo contributo economico. I numeri sono aumentati nelle ultime settimane. Michielli, un ultimo commento a beneficio dei nostri ascoltatori che ancora trovano qualche resistenza sul territorio. Secondo lei come possono serenamente utilizzare questo voucher? Secondo lei, insomma, il giudizio l'abbiamo detto, noi non vogliamo darlo. Se un albergatore decide di non utilizzarlo, sono scelte sue naturalmente, e anche una penalizzazione perché magari perde un cliente, quindi questo è anche il mercato. Un'ultima raccomandazione proprio alle famiglie che vogliono utilizzarlo, come devono porsi nei confronti dell'albergatore? Andate sul sito nazionale di Federalberghi, vedete l'elenco degli alberghi che accettano, che dichiarano di accettare il voucher sul sito nazionale, contattate quegli alberghi, sono organizzati per destinazione e quindi contattate gli alberghi che accettano appunto l'altro. Quindi piuttosto che fare una ricerca random e 18 telefonate insistendo con le strutture che ci piacciono, forse è meglio fare un processo al contrario, andiamo subito a vedere senza perdere tempo le strutture disponibili, sicuramente troveremo la località che fa anche al caso nostro. Questo è un po' il suggerimento, sì, mi pare. Sì, tenga anche presente una cosa, che per quanto Federalberghi sia molto incisiva sui suoi associati e tenuta in gran considerazione, ci sono anche molte strutture piccole magari che non associate, no, a parte non associate, non semplicemente non comunicano o omettono di comunicare il fatto che sono disponibili sul sito nazionale. A me risulta che ci siano, personalmente, per una indagine campione random con nessun valore scientifico, per carità, ma mi risulta che ci sono molte più strutture che accettano il voucher di quante ne abbiamo inserite dentro, quindi il voucher, ripeto, mi sembra un po' una polemica di lana caprina. Il voucher viene accettato, qualche struttura non lo accetta, appunto. Le strutture sono 30.000 in Italia, ripeto, metà chiuse magari, sono 15.000 alberghi aperti in Italia e la gran parte accetta il voucher. Grazie, grazie dottor Michielli. Marco Michielli, vicepresidente nazionale di Federalberghi. Il sito più volte evocato, diamo l'indirizzo per esteso, www.federalberghi.it, lì proprio dalla home page trovate un rimando per il bonus vacanze. Grazie dottor Michielli. Prego. Allora Debora, è venerdì e tu sai che abbiamo ripreso, per dare anche un senso di normalità, il momento poetico. Anche se è l'ultimo venerdì prima della pausa, io il sonetto questa volta ce l'ho, l'ho composto per l'occasione e vado a declamarlo. Quindi è vacanziero. Sì, è vacanziero. È sempre in tema con la puntata, sì. Dottor Trovato, non ci lasci, non si spaventi rispetto a questa circostanza, per noi è una ricorrenza da rispettare, quella del sonetto. Una tradizione. Arriva al fin lo tempo di vacanze, anche se l'anno in corso fa eccezione, perché qui molti, autonomi o maestranze, godremo forse poco il solleone, stretti tra le fatture e le finanze, perpetuando sanificazione, smart working e convegni con distanze, chissà se affitteremo un ombrellone. Pazienza, ascoltator, ci vuol pazienza, con i risparmi e con la pandemia. Devi essere più cedevol di un elastico. Dai nostri affanni orsù, prendiamo licenza. E chi può essere lieto, lieto sia, che tanto poi ritorna sempre il traffico. Promo 24. Piemonte, la nostra ospitalità è singolare e con il voucher vacanza sei nostro ospite due notti su tre in hotel, bed and breakfast, campeggio, alloggio, agriturismo. Più luoghi insoliti da scoprire, più sport all'aria aperta, più prodotti a chilometro zero, montagna o colline, laghi o città d'arte. I mille volti del Piemonte ti aspettano per le tue vacanze. Scopri gli itinerari per le due ruote e il trekking in paesaggi magici. Gusta il fascino della lentezza sui cammini spirituali. Visita i villaggi alpini e i parchi naturali. Assapora ora vini e cucina da intenditori. Vai su visitpiemonte.com e scopri come acquistare online il tuo voucher per una vacanza in pieno benessere e sicurezza. Due di denari. Whoa, whoa. Allora, Deborah, ti devo dare una buona notizia. Cosa è successo? No, dimmi, nonostante meno il nostro male. Momento, il mio momento di pazzia poetica, il dottor Giacomo Trovato è ancora collegato con noi. Quindi ha resistito, diciamo così, anche se forse non l'avevano così allertato e avvisato che sarebbe capitato. Ma perché lui ha saputo che in realtà questo tuo momento poetico gode di grandissimo apprezzamento a livello mondiale, per cui in realtà lui si considera fortunato ad essere intervenuto nella trasmissione del venerdì quando c'è l'appuntamento. Assolutamente sì, un artista, la prima volta che assisto ad un evento come questo. È una performance vera e propria, guardi, dottor Trovato. Senta, parliamo invece delle performance degli italiani, perché anche voi di Airbnb avete fatto delle ricerche che confermano il quadro così preoccupante, allarmante che abbiamo dipinto, tratteggiato fin qui. 82% degli italiani quest'anno trascorrerà le vacanze in Italia e va bene, ma contro un dato che l'anno scorso era del 55%. Quindi il 62% degli italiani opterà per soluzioni completamente indipendenti e qui entra in gioco, allora mi pare di capire, proprio Airbnb. Prego, dottor Trovato. Sì, allora innanzitutto io provo a vedere in una crisi sempre un'opportunità, quindi l'Italia per Airbnb è stata, diciamo, un paese che ha sempre attratto più gli stranieri degli italiani. L'anno scorso circa l'80% delle presenze su Airbnb in Italia proveniva dall'estero, quindi quando quest'anno la crisi porta improvvisamente gli italiani a dare maggiore priorità al loro paese, io la considero un'opportunità per in qualche modo far sì che gli italiani sempre più scoprano le bellezze artistiche e naturalistiche del nostro paese. Quindi tendo a vederla come un qualcosa che spero nel lungo periodo possa portare sempre più viaggio domestico. Sul tema poi, che il secondo tema che sollevava, sono vacanze da distanziamento sociale, cioè le persone un po' scottate dall'esperienza della quarantina e caute preferiscono immaginare una vacanza in un luogo in cui potersi isolare con la propria famiglia, un luogo comodo con tante diciamo aspetti che rendono il soggiorno più piacevole. Quindi il 62% delle ricerche su Airbnb è stato per case indipendenti e contro circa il 50% dell'anno scorso. Si cerca degli aspetti che, per esempio, la presenza di una piscina è il filtro più ricercato in questo momento. Si cerca un altro filtro, la possibilità di portare il proprio animale domestico. Cioè si sta cercando una vacanza da passare con la famiglia in un ambiente piacevole, in cui paradossalmente la casa diventa quasi la destinazione vera del viaggio. E infatti, perché pensavo, leggevo anche dai vostri dati, sono diminuite poi drasticamente le ricerche di appartamenti, quindi è calata la ricerca dell'appartamento in condominio, insomma in sistemazioni più comuni in qualche modo, e invece è aumentata quella della ricerca di una zona di comfort molto ben racchiusa, mi viene da dire. Esatto, abbiamo circa 120.000 case indipendenti in Italia. E poi vediamo tanta anche ricerca per alloggi che stanno nella natura, per esempio case che affaccino direttamente sul mare, sul lago, ce ne abbiamo più di 30.000, quindi questo è il tipo di soluzioni che in qualche momento, in qualche modo stanno andando per la maggiore. Tant'è vero che le zone di grande ripresa in questo momento sono per esempio le zone della costa toscana, della costa adriatica, il Salento, le case di montagna. Quindi laddove c'è una maggiore presenza della natura stiamo vedendo una ripresa dei flussi turistici che troviamo molto incoraggiante. Certo. Budget di spesa, dottor Trovato, voi riuscite anche a fare delle valutazioni in questo senso, così tanto per capire quanto le famiglie italiane, ovviamente in grande difficoltà, riescono comunque a mettere sul piatto per godersi qualche giorno di meritato riposo in qualche bella località italiana? Ma il budget, diciamo, tradizionalmente i nostri soggiorni su Airbnb tendevano ad essere relativamente brevi. Quello che stiamo vedendo quest'anno in realtà è che stanno un po' allungando, e questo per un fenomeno interessante, cioè una quota importante di famiglie tende a fondere la finalità della villeggiatura con lo smart working. Cioè, esatto, infatti sarebbe stata la mia prossima domanda questa. C'è qualcuno che approfitterà anche di questo fatto, magari riprenderà a lavorare dalla località di vacanza, dottor Trovato? Sì, noi lo stiamo già vedendo questo, cioè ci sono luoghi straordinari in Italia, spesso al di fuori dei flussi, diciamo, più tradizionali turistici, case con delle viste spettacolari che magari hanno dei costi per ciascuna notte molto più limitati. E quindi stiamo vedendo persone che ritornano un po' a questa idea di villeggiatura in cui si va un po' tutta la famiglia in villeggiatura, ma anziché avere il lavoratore o i lavoratori che poi raggiungono la famiglia nel weekend, questo è l'anno in cui tutti assieme si lavora e ci si svaga nello stesso luogo. C'è anche un aspetto di sicurezza non sanitaria, ma di sicurezza, per così dire, economica, cioè di attenzione alle truffe, perché voi insieme a Altro Consumo e alla Polizia Postale avete realizzato un kit antifrode, per dir così. C'erano stati infatti anche qualche episodio sgradevole di persone che si erano in qualche modo intromesse tra la struttura, appunto, tra Airbnb e chi offriva le sistemazioni, e in qualche modo avevano cercato di sottrarre del denaro a chi prenotava. Questo è anche un po' un modo vostro per aiutare i consumatori, mi pare di capire. Sì, in realtà queste truffe tipicamente avvengono al di fuori di una piattaforma come Airbnb. C'è un truffatore che tendenzialmente lancia un'esca. L'esca è un annuncio ben disegnato, con delle belle fotografie, con magari un prezzo iperconveniente, e attiva questo truffatore un dialogo a un certo punto con il viaggiatore che è interessato a quest'esca, e prepara il terreno per quello che è il momento chiave, cioè l'effettuazione di un pagamento, di una caparra, che quasi inevitabilmente è verso un bonifico all'estero, e che viene giustificato con il fatto che questo proprietario di casa è per motivi di lavoro, ad esempio, all'estero. Questa, diciamo, che è la fattispecie tipica. Allora, abbiamo voluto, con la Polizia Postale e Altro Consumo, mettere allerta contro queste dinamiche, contro i comportamenti del truffatore, e spiegare come si evitano queste cose. Su Airbnb in particolare il pagamento è soltanto gestito dalla piattaforma ed è soltanto elettronico, e noi paghiamo il proprietario di casa soltanto 24 ore dopo che l'ospite è entrato in casa, in modo tale che non ci possano essere cattive sorprese. Quindi l'invito è sfruttare queste piattaforme, come siamo noi, che gestiscono all'interno il pagamento e che non prevedono, è vietato l'effettuazione di un pagamento diretto alla controparte. La seconda cosa, leggere con grandissima attenzione l'annuncio. Investiamo tanto per creare una piattaforma che abbia anche tante recensioni che descrivano la storia di quella casa, l'esperienza precedente di altri viaggiatori, in modo tale che chi prenota lo faccia nei confronti di una struttura che ha una storia che ha dimostrato di poter soddisfare il viaggiatore. E poi noi facciamo investimenti molto forti anche per verificare l'identità delle persone, acquisiamo il documento di identità. Certo, questo per evitare di avere dei profili falsi. Esatto, si può sempre googolare, cioè usare la rete anche per capire se magari ci sono, così spuntano nomi chiacchierati. Abbiamo 30 secondi, Deborah, gli ultimi 30 secondi, sì. Poi andiamo in vacanza. Salutiamo magari alcuni amici ascoltatori che ci hanno scritto. Qualcuno dice che la vacanza non potrà farla, altri che lamentano il fatto che hanno trovato in Italia prezzi più alti e quindi vanno altrove. E poi l'ultimo ascoltatore che volevo salutare ci ha scritto una mail su Santa Margherita Ligure, dice: non direi poveretti, il meno che paghi due lettini e un ombrellone 35 euro verso i 25 dell'anno precedente. Io dico che il mercato è aperto, non siamo obbligati ad andare laddove i costi per noi non sono praticabili, e quindi il mercato fa il suo corso. Oltre al lettino e all'ombrellone ci sono tante altre costi che i gestori sostengono: si mangia, si beve, si fanno tante altre cose al mare, per cui teniamo in considerazione anche questi aspetti in questo anno così complicato. Eccoci qua, adesso mi daranno quella di, come dire, della difenditrice dei gestori degli stabilimenti balneari. Buone vacanze al dottor Giacomo Trovato, amministratore delegato di Airbnb Italia, e buone vacanze a te, Deborah. Buone vacanze a tutti, sì, i nostri ascoltatori. Sì, io torno lunedì, ho una piccola appendice con Focus Economia, poi saluterò tutti. Va bene. Buone vacanze, Mauro, a presto, grazie. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba, perché è semplice, è completa e conveniente, da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più.